Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo mercoledì 29 gennaio, una proposta indecente arriva da Trump per la Palestina, la risposta dei palestinesi è prevedibile e no, di questo parleremo naturalmente in rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda, sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Stati Uniti, Israele e Palestina, svelato il piano di pace di Trump, due stati ma Gerusalemme resta agli israeliani, a parte alcune sezioni di Gerusalemme Est, le reazioni in Medio Oriente. La Cina chiede le scuse per una vignetta pubblicata da un giornale, stanziati centinaia di milioni di dollari per il controllo del virus, Starbucks chiude 2000 caffè. Iraq, ucciso un altro giornalista, scossa di terremoto 7.7 tra Giamaica e Cuba. Afghanistan, le forze speciali recuperano due corpi dell'aereo precipitato. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dall'Iraq. Sul fronte proteste, uomini armati hanno ucciso il giornalista Muhammad Hussein Alwan fuori da casa sua. 15 manifestanti invece sono stati feriti, intossicati durante scontri in piazza Kulani, così come 7 della sicurezza. Due manifestanti sono stati invece uccisi a Nassiriya. Le autorità hanno sospeso le trasmissioni dell'emittente Al Dijla TV per la copertura delle proteste. E sarebbero molti di più di quanti ammessi dal Pentagono, sono circa 50 i soldati con commozione cerebrale dovuti ai missili iraniani lanciati contro la base americana di Ain el-Assad nella provincia di Al-Anbar all'inizio del mese in risposta all'uccisione del generale iraniano Soleimani e del capo delle milizie iracheno. In ogni caso, dei 16 nuovi casi diagnosticati, 15 militari sono già tornati al lavoro in Iraq. Stati Uniti, Israele e Palestina. Today Israel takes a big step towards peace. Affiancato dal primo ministro israeliano, Trump ha svelato il tanto atteso piano di pace in un evento pubblico apparentemente più progettato a distrarre dalle accuse di corruzione di Netanyahu che ad offrire effettivamente qualcosa di sostanziale. Trump ha insistito sul fatto che questa sia l'ultima possibilità per i palestinesi, ma non è chiaro per cosa. Hamas ha rifiutato subito l'accordo del secolo. Secondo il portavoce di Hamas, Gerusalemme resterà terra palestinese. In realtà il nuovo piano di pace di Trump dà più concessioni palestinesi di quanto ci si aspettasse, anche se non soddisfano le aspirazioni palestinesi. Nella mappa fornita dalla Casa Bianca c'è un tunnel che collega la Cisgiordania a Gaza. Si parla di due stati, ma Gerusalemme resta la capitale di Israele, con alcune sezioni di Gerusalemme Est che vanno ai palestinesi, il cui territorio di fatto aumenta ma perde completamente quello sugli insediamenti ebraici in Cisgiordania, compresi quelli illegali. Non c'è nessun piano che preveda il diritto di ritorno dei palestinesi, ma ci sono investimenti economici per i palestinesi da 50 miliardi di dollari. Secondo i sondaggi, metà degli israeliani ebrei si oppongono all'annessione unilaterale della Valle del Giordano. La maggior parte dei paesi arabi hanno annunciato il loro sostegno all'accordo, mentre lo rifiuta la Turchia, dicendo che un piano di annessione che punta ad usurpare la terra palestinese e uccidere la soluzione due stati. La stampa degli Emirati parla di un'opportunità per raggiungere la pace tra i palestinesi e gli israeliani. La Giordania ha ribadito il suo no e detto che uno Stato indipendente palestinese è l'unica soluzione per la pace. Il ministro degli esteri egiziano ha commentato dicendo che apprezza gli sforzi dell'amministrazione americana nel tentativo di raggiungere una comprensiva e giusta soluzione della questione palestinese. Il re dell'Arabia Saudita ha sottolineato il sostegno alla causa palestinese, ma Trump ha in precedenza rivelato che il Regno è uno dei principali contributori della parte economica dell'accordo. Intanto domenica Netanyahu ha in programma di procedere con l'annessione del 30% della Cisgiordania, tra cui tutti gli insediamenti israeliani e la Valle del Giordano, un tentativo di garantire che i palestinesi, se otterranno uno Stato, non avranno mai un confine adeguato con nessuno. Il premier israeliano ieri ha ritirato la richiesta di immunità dopo l'incriminazione a suo carico in 3 inchieste giudiziarie e oggi sarà a Mosca per parlare del piano con Putin. Per l'occasione sarà rilasciata Nama Issachar, una ragazza israeliana detenuta per possesso di droga, per la quale sia il premier israeliano che il presidente hanno chiesto la grazia. Libia non tiene la tregua annunciata 10 giorni fa con l'accordo di Berlino. I due leader, Sarraj e Haftar, si rimbalzano la responsabilità di infrangere questa tregua. Ieri 3 minori sono morti mentre andavano a scuola alla periferia di Tripoli sotto i colpi d'artiglieria. Stai ascoltando Radio Bullets. Albania scossa di magnitudo 5.0 a Durazzo e a migliaia di chilometri di distanza un altro potente terremoto 7.7 ha colpito tra la Giamaica e Cuba, evacuati anche edifici a Miami. Per fortuna sono rilevati solo danni minimi. Francia, pompieri in piazza contro la riforma delle pensioni, sui volti le maschere di Joker, scontri con la polizia e a Parigi evacuato un maxi campo migranti, 1.436 persone portate in palestre e centri di accoglienza. Regno Unito, fallisce il tentativo di bullismo di Trump, il Regno accetta la tecnologia 5G della Huawei. Austria, dopo il cardinale di Vienna, Schönborn, ora anche il vescovo di Innsbruck, Glätter, boccia il divieto di portare il velo nelle scuole. Il neogoverno di Popolari e Verdi vuole estendere il bando attualmente in vigore alle elementari, alle medie fino ai 14 anni. Per il vescovo l'iniziativa è sospetta e controproducente. Il velo, dice, un simbolo culturale, non tanto religioso. Anche mia nonna portava il fazzoletto in testa, sottolineando che non vuole una guerra di simboli. Glitter ricorda che sono gli atei, non i musulmani, a contestare il crocifisso nelle classi. Una delle prime iniziative del neogoverno è stata quella di decidere di mettere tutti i mezzi pubblici a 1 euro. Questo è il costo dell'abbonamento annuale in ciascuna regione, 365 euro. Viaggiare in 2 costerà invece 2 euro al giorno, in tutto il territorio ben 3. Oggi l'abbonamento attuale annuale per i mezzi pubblici è di 1.095 euro, progetto non facile perché il trasporto pubblico è affidato a 7 consorzi. Afghanistan, gli Stati Uniti mandano un team delle forze speciali, Navy SEALs, a recuperare i corpi, almeno 2, la scatola nera dell'aereo di sorveglianza precipitato nella provincia di Ghazni in un'area innevata controllata dai talebani contro i quali si sono scontrati le forze di sicurezza afghane. Gli americani hanno negato che l'aereo sia stato abbattuto dai talebani. Radio Bullets, le notizie che frantumano il silenzio. Cina, 5.900 casi confermati, 132 decessi, dichiara la Commissione Salute. Cominciata l'evacuazione da Wuhan, epicentro del coronavirus, degli americani. Sarebbero presenti in città anche una 70 di italiani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che l'evacuazione degli stranieri dalla Cina non è raccomandata. Hong Kong blocca i traghetti e i treni. Per la governatrice Lam non è giustificata la chiusura totale delle frontiere. La Cina intanto stanzia 4,4 miliardi di yuan, circa 640 milioni di dollari per il controllo del virus. Chiude invece 2000 caffè in Cina. Starbucks in Baviera, Germania, riscontrati 3 nuovi casi, esattamente come il primo, sono tutti impiegati dell'azienda Wabasto. 4 giapponesi evacuati da Wuhan, portati in ospedale. La Cina chiede le scuse per una vignetta sul virus pubblicata da un giornale danese. il Jyllands-Posten il 27 gennaio scorso per l'ambasciata cinese è un insulto alla Cina e un'offesa alla coscienza umana. Il premier danese invece ha difeso il diritto alla pubblicazione. Sul nostro sito troverete l'immagine. Una catena di drugstore di Pechino invece è stata multata per $400,000 per aver alzato i prezzi delle mascherine, 10 mascherine per $166, 6 volte più di quanto si paga di solito. 7 casi registrati in Malesia, mentre un uomo è stato arrestato per aver diffuso notizie false sul virus. La fondazione di Bill Gates ha deciso di donare $10 milioni alla lotta contro il virus. Metà dei soldi andranno alla Cina, l'altra all'African Centers per il controllo e la prevenzione delle malattie. Australia in piena catastrofe naturale con gli incendi boschivi che hanno devastato il paese. Il premier Morrison ha detto ieri che desidera maggiori poteri federali e di voler creare un quadro giuridico che consenta al Commonwealth di dichiarare lo stato di emergenza nazionale, aggiungendo che la catena di comando tra i vari stati e il governo federale è rimasta poco chiara. Anche se non ha fornito dettagli, il leader conservatore con il suo piano si sta muovendo per respingere le critiche di aver agito con lentezza durante gli incendi. Perù, di nuovo carcere per la leader dell'opposizione Keiko Fujimori. A fine novembre scorso era uscita dopo 13 mesi in via preventiva durante le indagini su di lei per la presunta corruzione. Lei minaccia di porre fine al suo silenzio. E concludiamo con il Brasile. Sale a 63 il bilancio dei morti per il maltempo nel sud-est. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con un'altra raffica di notizie. E vi ricordo che se volete sostenerci potete andare su radiobullets.com. /sostienici, sempre che crediate in un giornalismo indipendente.

Segna stampa di Radio Città Fujiko. 9:27 di questo 29, mercoledì 29 di gennaio, che vede la proposta indecente di Donald Trump e di Bibi Netanyahu. Lo chiamano proposta di pace, ma è come le guerre di pace, interventi di pace, eccetera, eccetera. È una conquista, l'ennesima conquista ai danni del popolo palestinese. E il Corriere della Sera, devo dire che tutti i giornali, forse tranne il giornale, che io sono sott'occhio, ma ce ne parlerà Piero, la presentano come una bufala, a partire dal Corriere della Sera. Trump presenta il piano del secolo, ma la sua pace accontenta solo Israele. E quindi che pace è? Abu Mazen è infuriato, non lo accetteremo mai. Netanyahu pronti ad annettere la valle del Giordano. Tanto per cominciare, per dare un gesto di buona volontà, si annettono la valle del Giordano, quindi con tutto il problema, oltre che del territorio, dell'acqua soprattutto, perché il Giordano ha delle poche fonti idriche che abbevera l'intera regione. E allora questo progetto in quattro punti viene così riassunto dal Corriere, e direi che i punti parlano da sé. Resta gli israeliani a est la capitale araba, sempre come se a Bologna rimanesse gli arabi e Casalecchio, insomma. Gli insediamenti, colonie confermate, scambio di territori, con 4-1 nello scambio. No al diritto di ritorno, quindi chi è stato cacciato via sono affari suoi. Poche compensazioni, neanche pagando si intende, come si diceva un tempo. E Gaza e Cisgiordania unite da un tunnel, questa sarebbe l'unità territoriale dei palestinesi, che viene raccontata a Quelli della Sera. Anche la stampa è molto perplessa, anzi più che perplessa, su questa cosiddetta pace trampiana, per cui per esempio Aaron David Miller in qualche modo smentisce nelle sue previsioni quello che ha detto Trump, che i paesi arabi sono d'accordo col suo piano di pace. I paesi arabi, i suoi amici ovviamente. Il progetto politico, il negoziato non partirà. L'analista del Carnegie dubito che i sauditi spingeranno perché venga accettato, e se nemmeno i sauditi ci stanno, che sono grandi amici di Israele, non è dato. Nel frattempo tutti notano che i due, tra virgolette, pacifisti, cioè Netanyahu e Trump, hanno entrambi qualche problema in casa. Mentre Trump c'ha in corso la campagna dell'impeachment al Senato, dove pure i repubblicani sono in maggioranza, però c'è il libro di Bolton che in qualche modo lo smentisce clamorosamente sul Kiev Gate, beh, anche Bibi, Netanyahu, rinuncia all'immunità e viene incriminato. Quindi la si butta sulla guerra, ovviamente, sulla pace, per coprire anche le beghe interne, sempre ai danni palestinesi. Persino il Fatto Quotidiano, che tra i nostri fogli di carta stampata è tra i più occidentalisti che ci siano, oggi così la descrive con scuto: il piano del secolo di Trump è un passo a due con Bibi, la pace del tycoon. Lo Stato ebraico terrà Gerusalemme, capitale la Valle del Giordano, i palestinesi perdono 400 km quadrati dei territori. Questo è il piano di pace. E anche sulle 24 ore devo dire che non ha parole tenere sul piano di pace, tra virgolette, di Donald Trump, perché dopo aver detto Trump e Netanyahu presentano la soluzione per la Palestina, i commenti arrivano prima da Roberto Bongiorni: un piano preparato senza coinvolgere la parte palestinese della ben strana pace, quando la fai non a due ma a uno. Più che uno Stato palestinese, nel piano di Trump viene disegnato un non Stato. Questo è il commento di Bongiorni, a cui fa eco anche l'altro intervento di Ugo Tramballi, sempre da Sulle 24 Ore: il difetto di fabbrica della diplomazia nordamericana, perché gli USA non sono mediatori equidistanti. Per Washington le richieste israeliane contano sempre più di quelle palestinesi. Il De Profundis viene intonato proprio dal titolo di apertura del manifesto: Buonanotte Palestina, Trump offre uno Stato ai palestinesi, fra molte virgolette, ma in realtà propone solo, il commento del manifesto, un'entità fantoccio senza sovranità. Netanyahu applaude. Per l'ambasciatore americano Friedman, Israele può annettersi subito le colonie illegali della Cisgiordania. Questo è il riassunto appunto di quello che il manifesto non esita a definire un attacco, l'attacco del secolo al diritto internazionale, con questo piano incendiario appunto che lascia ai palestinesi solo una serie di piccole isole di Bantustan in Cisgiordania nella striscia di Gaza a sovranità zero, visto che sovranità e sovranismo è un termine che va molto di moda nel nostro paese. Beh, invece questo accordo di sovranità per la Palestina ne ha ben poco. Anche dalla Repubblica, questa nuova mappa per il Medio Oriente, che viene anche pubblicata da un punto di vista grafico, Gerusalemme e coloni, il piano di Trump piace solo a Israele. E non c'è solo appunto questa mappa che è stata diffusa dalla Casa Bianca con, come già diceva Alfredo, i palestinesi che perdono la valle del Giordano e quindi fra l'altro anche il confine con la Giordania, anche se appunto Trump parla di strade, ponti, tunnel, insomma da far gola anche ai nostri concessionari di autostrada in altre faccende affaccendati, ma c'è anche un fronte, è un tema appunto quello del fronte arabo, esaminato da Repubblica. I paesi arabi si spaccano, addio al sogno palestinese, in soffitta quella che era l'unica causa comune. Vorrei ringraziare gli ambasciatori di Oman, Emirati Arabi Uniti e Bahrain per essere con noi. La spaccatura che da anni divide il mondo arabo sta nelle poche parole che Trump pronuncia alla Casa Bianca presentando il suo accordo del secolo. Per anni la causa palestinese è stata l'unico collante che ha unito tutti i paesi del mondo arabo e musulmano. Da tempo ormai si sapeva che non era più così, ma appunto ieri è stato in qualche modo attestato proprio dalle dichiarazioni in apertura di Trump, con questi schieramenti che ovviamente si riverberano anche nel sostegno pro o contro l'Iran. Alfredo prima evocava il giornale, allora andiamolo a vedere nelle pagine interne. Trump, il piano del secolo con uno Stato palestinese per negoziare, 4 anni saranno necessari, momento di svolta storica, la cronaca arriva da New York, quindi insomma non sono toni particolarmente trionfalistici nemmeno quelli del giornale, che invece si concentra soprattutto sulla battaglia politica in vista in Israele, in vista delle elezioni del prossimo 2 marzo, perché Netanyahu ha annunciato su Facebook che ha deciso di ritirare la sua richiesta di immunità parlamentare dopo l'incriminazione a suo carico. La domanda è se questa iniziativa di Trump troverà di nuovo l'unità dei palestinesi. Apparentemente sembra di sì, ma sappiamo quanto tra Abu Mazen e Hamas non corrono tempi felici. Per il momento però leggiamo di un fronte comune, quindi dice Giordano stabile, fronte comune Hamas-Abu Mazen, i nostri diritti non sono in vendita. Il leader dell'autorità nazionale palestinese boccia il piano cedere il 30% del nostro territorio, è folle, perché il 30% del territorio palestinesi che avrebbe ceduto. L'Egitto invece invita a valutare la proposta. I primi scontri in Cisgiordania e ora Ramallah teme l'isolamento dagli alleati che non vogliono un conflitto aperto. Haniyeh, leader di Hamas, dice l'unità palestinese è fondamentale per far fronte all'accordo che vuole annientare i nostri diritti legittimi. Abu Mazen, che è presidente dell'autorità palestinese, Gerusalemme non è in vendita, il nostro popolo getterà nella pattumiera della storia il piano Trump. E anche il ministro degli esteri della Giordania è molto preoccupato per questa escalation di guerra e non di pace, che è Ayman Safad. Misure unilaterali come annessione e violazione dei luoghi santi a conseguenze molto pericolose. Una Giordania chiaramente che dai tempi Settembre Nero è sempre sull'orlo del disastro, riesce a convivere grazie a una gestione da pugni di ferro ma anche dal guanto di velluto. E tutto questo poi si gioca in una geopolitica complessa del petrolio ovviamente e dei suoi guardiani come Israele, che si sposta in Libia. La Libia è la provocazione turca, così l'Italia nel Mediterraneo, come cambia il risico del petrolio, racconta Stefano Agnoli dalla pagina del Corriere della Sera. La nave per operazione Yazdouf sta esplorando nelle aree Eni e Total, quindi diciamo che c'è un'invera invasione delle aree, tra virgolette, delle aree petrolifere controllate dal colonialismo italiano, come colonialismo dei colonialisti, e la Libia è il teatro di guerra e non figurato, ahimè. perché anche oggi si legge che in Libia muoiono in bombardamenti, a Tripoli uccisi tre bambini, in Libia la diplomazia ciarla, c'è stato il fuoco, non c'è, a Tripoli uccisi tre bambini. Nel frattempo la conseguenza, migranti, migliaia in fuga dalla Libia, ed eccolo qua il salvagente, non per i migranti ma per Matteo Salvini, reduce dalla sconfitta dell'Emilia Romagna, e Salvini attacca, denuncio Conte. Oggi 403 a Taranto, i leghisti tenuti in mare, questo è quello che leggiamo dal Corriere della Sera. E allora andiamo a vedere anche le pagine del manifesto, che ha anche una foto nel taglio basso della prima pagina. Ocean Viking, per i 403 migranti finisce l'Odissea, la nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere verso Taranto. L'Alan Kurdi invece andrà a Malta con 237 persone a bordo, mentre domenica appunto verrà rinnovato per 3 anni il memorandum Italia-Libia. E in questa pagina davvero molto ricca, molto ampia, il manifesto aggiunge anche un altro tassello con un'intervista a Luca Casarini, verso di noi una perversione politica, richiesta di archiviazione nel primo procedimento contro Casarini e capomissione di Mediterranea. Pazzesco, commenta ancora Casarini, che le leggi di Salvini siano ancora lì. Ma a proposito della Libia, in aumento i migranti in fuga, questo dicono appunto i dati, mentre appunto il memorandum tra Italia e Libia si rinnoverà domenica per 3 anni. La ministra Lamorgese non ha però detto cosa prevedono le modifiche che pare appunto siano in campo sul tema dei diritti umani, quindi c'è appunto un memorandum, ma c'è anche molta curiosità per capire quali potrebbero essere le eventuali novità. Anche dalle pagine della Repubblica, attenzione a quello che accade, con un taglio che viene sintetizzato da questo titolo, e che un po' contrasta con quanto diceva, anticipava in qualche modo il manifesto. Migranti, la resa sul patto Italia-Libia sarà prorogato senza modifiche. Quindi Repubblica sostiene appunto che non ci saranno cambiamenti. Il governo aveva promesso interventi in nome dei diritti umani, ma con Tripoli è difficile parlare, quindi scatterà il rinnovo automatico. Quindi secondo Repubblica, visto che insomma cambiare comporterebbe qualche difficoltà, allora meglio lasciare le cose come stanno, tanto che il ministro Lamorgese come epitaffio mette questa sua dichiarazione: la nostra parte l'abbiamo fatta, come a dire non si può fare di più. Devo dire che però il Repubblica condisce appunto questa notizia con un reportage dal centro di permanenza per rimpatri di Gradisca di Sonso, siamo in Friuli, terra di un tempo di caserme di servizio militare, rivolte e manganellate. Quindi il copione non cambia. Il centro per i rimpatri dove si lotta in una gabbia. A Gradisca, dietro il caso del georgiano morto, un enclave ingovernabile ad alta tensione. Assistenza al minimo e scappano anche i medici. Quindi qui il centro di permanenza di Gradisca sembra davvero sempre di più una polveriera. Ma non sempre l'altro è sgradita, perché vado in Spagna, e qui comincio il giro per l'Europa, a Vox, il partito filonazista, anzi filofranchista in questo caso, a Vox gli stranieri piacciono, basta che paghino. Il leader Abascal e il suo vice hanno ricevuto 5.000 euro a testa dai dissidenti iraniani. Naturalmente che siano dei mercenari non ci stupisce, ma viene confermato. Il capo, dice Vidal Cadras, uno di questi nazisti franchisti, il capo era al corrente di tutto, gli spiegai le mie relazioni col CNRI, questi gruppi stranieri iraniani dissidenti, e gli dissi che ci avrebbero finanziato e ne fu felice. E nel frattempo abbiamo Sánchez, primo ministro della Spagna, in questa maggioranza relativa con Pablo Iglesias del Podemos, Beh, allora parla coi separatisti di Catalogna. È fissato per il 6 febbraio, leggo sempre dal Fatto Quotidiano, il primo incontro tra Pedro Sánchez e gli indipendisti catalani, che dovrebbero dare il via al tavolo di dialogo per l'indipendenza, in cambio del quale Esquerra Repubblicana si è astenuta in Parlamento e quindi in questo modo è passato la fiducia al governo. Anche Junqueras, rientrato ieri al Parlamento catalano con un permesso dal carcere, si è detto disponibile al dialogo. Lancio, ANSA, ripubblicato dal Fatto Quotidiano. Vado nel Regno Unito, nel dopo Brexit, e c'è, naturalmente si diceva, l'Inghilterra e il suo impero volta le spalle all'Europa e guarda l'America, ma subito i primi problemi, perché Londra sfida l'ira di Trump sul 5G, quindi parliamo della Cina, e apre con cautela Huawei, proprio il massimo che può fare arrabbiare Trump. Quote di mercato limitate al 35% e a protezione dei settori strategici. Prime reazioni negative degli USA, oggi Pompeo incontra il Premier Johnson, dice il Sole 24 Ore, ripreso anche dalla stampa, da Johnson uno schiaffo a Trump, Londra lascia entrare 5G di Huawei. USA deluse dall'apertura alla Cina, il Premier regole rigide a Pechino, il 35% del mercato. Se poi andiamo in Francia, abbiamo le foto dei giornali che ci riportano i pompieri in piazza a Parigi e scontro con la polizia. Naturalmente i pompieri dovunque sono molto popolari tra la popolazione, perché intervengono nei casi in cui la gente è in grosse difficoltà, e perciò manganellare i pompieri, manganellare l'intera società. I pompieri chiedono migliori condizioni di lavoro. Pompieri scontro poliziotti, sono scontrati a Parigi, ciascuno protetto dalle rispettive uniformi. Nuovo episodio del malcontento di tanti categorie contro il governo. C'è anche la metamorfosi delle maschere, perché al tempo di Occupy Wall Street c'era la maschera di Victor con la rivincita su degli oppressi contro gli oppressori, poi si è passato alla maschera di Dalì, presa dalla casa di carta, dove la ribellione è una ribellione delinquente tra virgolette, e adesso invece la maschera è quella di Joker, e quindi una maschera senza nessuna speranza, e anche questo la racconta molto su come sta andando il mondo dagli indignados ai disperados. E ancora, anche dal Manifesto, protesta dei vigili del fuoco a Parigi, la polizia carica, in effetti fa abbastanza sensazione appunto questo scontro tra vigili del fuoco scesi in piazza per chiedere migliori condizioni di lavoro, guarda un po', e appunto la polizia che li ha respinti quando un gruppo di manifestanti ha provato ad uscire dal percorso autorizzato. In chiave europea invece abbiamo il giornale che mette questa notizia in prima pagina, perché è una notizia insomma che preoccupa molto il quotidiano di Sallusti. Fine della pacchia in Portogallo. Lisbona tassa i nostri pensionati. Il Portogallo, quindi il Portogallo non più isola felice, il Portogallo si prepara ad aumentare fino al 10% la flat tax, famigerata anche da noi, pagata dai percettori di pensioni che si trasferiscono parzialmente in Portogallo da altri paesi. Attualmente è 0%, quindi non c'è nessuna tassazione. E allora anche il Manifesto conferma questa preoccupazione del giornale. Portogallo arriva la tassa per i pensionati europei. In Portogallo il Partito Socialista del Premier Costa ha proposto di tassare del 10% i pensionati europei che si stabiliranno nel paese da quest'anno. La proposta è una concessione alle proteste di comunisti e blocco de schierda critici nei confronti dell'esenzione che era stata creata appunto nel 2009 per attrarre investimenti stranieri, in questo caso pensionati stranieri, è contenuta in un emendamento della finanziaria del 2020. Ed è inevitabile parlare del coronavirus, che fa sempre più paura, anche perché i casi ormai sono un po' in tutto il mondo. L'ultimo questa mattina è che c'è un caso anche negli Emirati Arabi Uniti, e sappiamo che sono in Francia, sono in Germania, sono in Inghilterra, ci stanno in Australia, in Canada, insomma, e poi naturalmente c'è questo grande contagio in Cina con milioni di persone, sono tante, chiuse in quarantena. Il contagio non si ferma, la Cina resta corto di farmaci e maschere, i piccoli villaggi si blindano, chi esce non può tornare, le vittime sono 107, 9 casi sia in Francia che in Germania. si registra questo ponte aereo europeo per evacuare gli italiani bloccati nella città fantasma. Naturalmente verranno poi tenuti in quarantena almeno per 2 settimane, perché questo è il periodo massimo di incubazione della malattia, questa influenza che ha una mortalità non pari alla SARS ma comunque estremamente preoccupante. Hong Kong si è rivolta contro Pechino: se non chiudono i confini lo faremo noi. Naturalmente c'è anche l'aspetto politico, l'aspetto economico di questo mega virus che sta affossando l'economia cinese e naturalmente infiamma anche le frontiere. Dopo gli 8 casi registrati, la popolazione insorge, molto contro le strutture per la quarantena, come se una dogana potesse fermare il virus, ma vabbè, che come sempre dalla peste manzoniana queste cose creano reazioni di massa assolutamente incontrollate ed irrazionali. Il Corriere è preoccupato per l'arrivo del virus in Europa, è contagio in Germania, già 4 i casi, il virus trasmesso ai colleghi da una persona venuta dall'Oriente, prima volta in Europa da uomo a uomo, anche questo è l'elemento che preoccupa. Crescono i limiti ai viaggi, in alcuni villaggi cinesi la gente ha eretto muretti e barricate per tenere fuori i forestieri. E allora Alberto Mantovani, uno dei maggiori esperti di immunità e infiammazioni, dice: perché sono i vaccini della cintura di sicurezza del mondo globalizzato? Questo è quanto. Il virus di Wuhan dilaga, paura per i cittadini italiani, questa è la pagina del Fatto Quotidiano. L'emergenza che lei stanno a Wuhan, la metropoli nel caos, 16 milioni di persone, mancano ambulanze, pochi kit per le analisi. Sì, e dal Carlino in prima pagina, taglio alto, ponte aereo, fuga dal virus killer, la Cina ha paura, lottiamo contro un demone, il commento del poeta Davide Rondoni: che cosa ci insegna questa epidemia? Basta un morbo e ci sentiamo tutti più piccoli, il morbo ci incute timore perché ci ricorda che siamo fragili. Anche dalla Repubblica, virus Wuhan, più di 100 morti, paura in Europa, questa è tutta la prima parte oggi della Repubblica. Il virus dilaga peggio della SARS, casi raddoppiati in 24 ore, in Cina scuole e università chiuse fino a data da destinarsi, anche perché il picco sarebbe atteso fra una settimana, 10 giorni. Anche qui c'è un esperto, l'epidemiologo Giovanni Di Pierri: uccide solo 3 malati su 100, ma ora la diffusione sarà esponenziale. Per quanto riguarda l'Italia, se il coronavirus arriverà ci troverà pronti, mentre i primi europei contagiati, appunto, sono notizie di queste ore, senza essere stati in Cina, 4 malati in Germania. E poi c'è la trincea antivirus dei medici francesi: così curiamo i nostri pazienti zero. A Parigi, nell'unità Ebola dell'ospedale Bichat, è ricoverata la coppia di turisti cinesi positiva al test, fuori pericolo, ma li terremo ancora qui. E sempre Repubblica segnala appunto come la velocità del contagio, secondo gli economisti, è legata anche al fatto che la Cina, che nel 2003 era al 60% un paese rurale, ora invece vede il 60% della sua enorme popolazione concentrata in poche megalopoli, senza contare appunto l'aumento ovviamente di viaggi nel mondo. Un tema che è anche al centro del dossier che oggi presenta il Manifesto, nelle pagine centrali, import-export, greggio, medicinali, tecnologia, profilattici, cipolle, gamberi, olio di palma, cosa esportano e cosa importano i paesi asiatici e quali equilibri attuali rischiano di essere messi in discussione dalle ricadute economiche del coronavirus. E allora, come sempre, l'equilibrio difficile è stare tra il non panico e l'attenzione, e soprattutto non diffondere fake news. Questo lo ricorda anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, di cui abbiamo ascoltato le parole. Qual è la situazione sul nuovo coronavirus? La situazione è in continua evoluzione, sia per l'emergere di sempre nuovi casi, una circostanza questa largamente prevista dai modelli previsionali, sia per il lavoro di ricerca che punta a caratterizzare gli aspetti di questa infezione virale e del virus che la sostiene. Con il passare delle ore stiamo accumulando sempre nuove conoscenze, e questa è una buona notizia, nel senso che ci consente di acquisire informazioni che ci aiutano nel mettere a punto le misure per controllare la diffusione del virus, ma allo stesso tempo pone il rischio che circolino molte informazioni, qualche volta non completamente fondate. Le autorità sanitarie cinesi, in collaborazione con quelle internazionali e tra queste quelle italiane, sono pienamente allertate e stanno lavorando in stretta collaborazione per cercare di controllare l'epidemia. Per avere informazioni sempre aggiornate e complete, è raccomandabile affidarsi solo ai siti ufficiali. Quali sono le persone a rischio? Alla data odierna, persone a rischio sono considerate quelle che negli ultimi 15 giorni si sono recate nelle zone a rischio e che manifestano una sintomatologia simile alle infezioni delle altre vie respiratorie, quali febbre, tosse, dolore muscolare, affaticamento, difficoltà respiratorie, o anche persone che siano state in contatto con persone colpite dal coronavirus. Un ulteriore motivo di preoccupazione è la possibilità, anche questa non insolita per le malattie infettive, che persone asintomatiche possano trasmettere il virus. Le persone a rischio sono quelle che si sono recate negli ultimi 15 giorni nelle zone coinvolte dall'epidemia o che sono state in contatto con persone che hanno contratto l'infezione. Quindi persone che vivono in Italia e che non sono state in queste zone, non hanno avuto contatti e la comunità cinese è tra queste, non sono considerate a rischio. Che cosa è necessario fare? In questa fase dell'anno ci troviamo nel picco della diffusione del virus influenzale. I comportamenti quindi da adottare sono molto simili a quelli adottati e raccomandati per prevenire l'infezione con questo virus. Vuol dire lavarsi accuratamente le mani, lavarsele spesso, vuol dire coprirsi le vie aeree quando si starnutisce, auspicabilmente con un fazzolettino di carta da poter poi gettare, evitare contatti stretti con persone affette da sintomi influenzali e avere un'accurata pulizia delle superfici. Come comportarsi in caso di dubbi? L'Italia è pronta per affrontare questo tipo di emergenza. Il nostro paese tra i primi ha messo in atto i controlli negli ingressi dalla Cina nei nostri aeroporti e ha adottato altre misure in accordo con le regioni per affrontare eventuali casi che si dovessero manifestare. Il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno attivato delle specifiche pagine nei loro siti web per fornire continuamente informazioni aggiornate a tutti gli interessati. È attivo anche un numero verde, 1500, dove esperti sono in grado di indirizzare eventuali dubbi. Si può andare a mangiare al ristorante cinese? Le conoscenze di cui disponiamo al momento ci dicono che la trasmissione di questo virus non avviene per via alimentare. Inoltre, in Unione Europea è vietata l'importazione di animali vivi o di carni crude dalla Cina. Cibi, prodotti cinesi possono essere rischiosi? Gli oggetti prodotti e importati dalla Cina non hanno un rischio diverso da qualsiasi altro oggetto presente nel nostro mercato. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. E dunque veniamo invece alle elezioni. Se sono spogliate le urne lunedì e già oggi, mercoledì, si parla del prossimo contesto elettorale. Sembra di stare nel campionato di calcio, che appena finisce uno vince lo scudetto già si pensa allo scudetto successivo. Infatti leggo la Gazzetta del Mezzogiorno, regionali, i nodi della Puglia. Salvini prende tempo su Fitto, Renzi ribadisce il no Emiliano, prescrizione, la maggioranza avanti, ma Italia Viva non vota il testo. Questa è un po' la paranoia elezioni del nostro mondo politico. E Berlusconi, al sud Lega più che raddoppiata, la destra da sola non può vincere, leader di Forza Italia, Matteo tentato dalla corsa in autonomia, non ha istinti suicidi. Questo è quello che arriva. Mentre interviene anche chi? Massimo D'Alema, è un dei saggi del giorno dopo, che dice il PD non può fare tutto da solo, per vincere ha bisogno dei 5 Stelle. Massimo D'Alema, l'ex presidente del Consiglio, il movimento non è morto e non va liquidato, altrimenti è un bipolarismo zoppo. Il messaggio dei 5 Stelle su povertà e privilegi può trovare la sua naturale collocazione in quel di sinistra. E nel frattempo abbiamo anche altri temi, per esempio che girando per le elezioni future, i leghisti toscani, leggo sempre dal Fatto Quotidiano a Salvini, qui però niente citofono, quindi non fare cazzate, tradotto dal leghismo. Niente, nell'altra regione rossa si teme che il capitano sul territorio possa fare dei danni e anche Francesca Verdini non vuole l'estremista Ceccardi. Quindi quindi sta prevalendo nella Lega l'anima, si dice nel politologia, dei Giorgetti, questo è quanto. Poi naturalmente sul il citofono, le spaccia, via il video, si muove la privacy, e tra l'altro ci racconta i giornali, viene indagato anche quel maresciallo di carabinieri che era con lui e che non gli ha impedito di fare questa delazione, questa messa alla gogna, ed è tutto fuori legge. Ma il leader rilancia, perché Salvini ha dei meriti politici sicuramente, ma ha solo un grande demerito, ha solo una marcia, quello di andare avanti come una riete, non ha altre possibilità di ritmi. E il leader rilancia, va avanti come un rullo compressore, dubbi sui candidati degli alleati, caldori in campagna e fitti in Puglia non lo convincono. Questo è il Corriere, mentre dicevamo il citofono, Facebook rimuove il video di Salvini. Mentre le sardine al sud spaventano i 5 Stelle, così potrebbero saltare anche l'ultimo fortino. Credo che i 5 Stelle abbiano i problemi che non vadano sulle sardine. Comunque, Conte temporeggia sull'incontro, i grillini temono possano spostare consensi al PD, il movimento cosiddetto ittico, studieremo iniziative all'interno del Mezzogiorno. Un militante pugliese delle sardine, abbiamo già chiesto agli emiliani di fare rotta qui, questo è quanto. E poi, per quanto riguarda invece casa nostra, Bologna, abbiamo critiche social, Bonaccini sbotta, radical chic. Beh, una caduta di stile pesante di Bonaccini di fronte a un commento comparso sul web, perché il commento era: Bonaccini e la sua giunta sono il peggio di quello che il PD potesse generare in Emilia Romagna, insomma in tanti abbiamo votato un'ennesima volta per il meno peggio e tanti saremo sempre con XM, con la realtà che vogliono rendere Bologna e l'Emilia un posto migliore. Questo è il post, la replica, il post un po' condividerlo meno, ma la replica sicuramente fuori luogo. Questi sono quelli che meriterebbero la Lega e Salvini al governo dovunque, abbiamo vinto anche per loro, radical chic inconsapevole, insomma un linguaggio davvero che sta, lo troviamo più spesso nella bocca di Salvini questo, ma infatti viene criticato anche da ambienti che pure hanno optato per l'opzione Bonaccini. E un articolo preoccupante che arriva da Francesco Rosano e dal Corriere del Bologna: opere lavoro nei primi 100 giorni, quindi infrastrutture passante, Bevio People Mover e quant'altro, ma per gli autobus gratuiti gli studenti bisogna aspettare. E questo naturalmente campa a cavallo che lo studente, diciamo, non crepa ma si laurea nel frattempo, diciamo così. E questo sono news da Bologna. Sì, il riassetto del centrodestra ovviamente è particolarmente caro al giornale, che oggi dedica un'analisi soprattutto a quella che definisce la guerra per il sud. Tensione sulle candidature nel centrodestra per le regionali di giugno, Salvini spera nella Puglia ma la Meloni vuole Fitto, a Forza Italia la Campania. La Lega quindi così non avrebbe candidati nel Mezzogiorno, quindi staremo a vedere se Salvini dopo la citofonata si farà cancellare anche in questo modo. Peraltro, a proposito della citofonata cancellata da Facebook, ci ricorda il giornale, il post aveva raggiunto le 280.000 visualizzazioni, qualcuno insinua che Facebook non l'ha cancellato prima a causa della grossa cifra che la Lega ha impiegato per la sponsorizzazione della pagina durante la campagna elettorale. Insomma, a pensar male a volte non si fa peccato. Anche dalle pagine del Resto del Carlino abbiamo Facebook che oscura il blitz di Salvini, e poi le analisi di due politologi proprio sul futuro di Salvini. Ormai al culmine della parabola, secondo Piero Ignazzi, difficile che tenga questo consenso, mentre per Alessandro Campi non è finito ma deve cambiare. Un conto se aspira a diventare premier si deve ammorbidire, se si accontenta di fare il capopopolo va bene anche così. E poi però abbiamo, come già diceva Alfredo, appunto oltre al prezzo della sconfitta di cui parla oggi la Repubblica nel suo titolo di apertura, col titolo Salvini guai in casa, Lega e alleati, primi guai per Salvini, critiche del suo numero due Giorgetti alla campagna. Giorgetti gli ha rimproverato i toni esasperati del pilastro. Abbiamo poi la sfida appunto di primavera, forse in 6 regioni ma forse anche in Val d'Aosta, quindi potrebbero essere 7. Primo derby tra PD e Italia Viva, un rebus le scelte dei 5 Stelle. In campagna De Luca non accetta passi indietro, anche se spuntano altri nomi, ad esempio quello di Cantone. In Puglia veto, appunto già lo diceva Alfredo, dei renziani su Emiliano, ma la cosa interessante è anche la Toscana, una regione molto di peso su cui si concentra oggi il manifesto, perché il candidato presidente appunto sarebbe per il centro-sinistra appunto sarebbe questo ex renziano di ferro, non c'erano molti dubbi, Eugenio Giani, di antica matrice nel Partito Socialista Nenciniano, il quale sarebbe pronto anche a rinunciare a una sua lista per non penalizzare proprio Renzi. Renzi teme la sfida con il PD, allora l'amico Giani gli dà una mano. Quindi si stanno appunto componendo, già si sta lavorando per la Toscana con appunto il candidato Eugenio Giani, che sembra deciso a non presentare una propria lista, e questo proprio appunto per andare incontro a, a Renzi. Gianni, che ricordo, è un diplomatico di carriera, e appare disposto appunto a dare una mano. Nella regione c'è Daria Giaria di Derby, fra i tanti che sono rimasti, i pochi che sono usciti dal PD in quella che era un'autentica armata negli anni del renzismo trionfante. La sfida, così la definisce il pagina del Fatto Quotidiano. Ora Bonaccini cambi musica, basta con l'asfalto e il cemento. Dopo la vittoria, dice Vittorio Emiliani dal Fatto Quotidiano, il tema dell'uso del suolo di questi anni non è stato affrontato né in Emilia Romagna né a Roma. Sarebbe ora di porre mano alla questione. Un problema ambientale, il consumo nelle grandi regioni nel 2018, una questione aperta, dice appunto l'articolo di Emiliani, il dissesto ai livelli allarmanti con terreni sprofondati anche di un metro e mezzo. Quindi prima di fare altre opere pubbliche come strade, autostrade, dobbiamo pensarci più volte. Poi abbiamo, lo dice il giornale, lo dice anche il Corriere, su Facebook i vari commenti dei leghisti prima delle elezioni, tra cui questo che Hamas offese a Pertini, bufera su un consigliere, lui è Filippo Frugoli, che di fronte a Pertini non è neanche un nano, è un microcosmo, un microbo. Comunque ha scatenato la polemica, volendo opporsi alla richiesta di titolare un ponte all'ex capo dello Stato. Ha definito Pertini il capo partigiano che ha ucciso una marea di persone accusate di essere fasciste, e colui che annunciò di essere un brigatista rosso. Frugoli ha poi eliminato il post spiegando di essere stato frainteso. Questo è la, della serie Nani in movimento. Poi ci sono analisi del voto, anche qui sul flusso dei voti c'è tutti di più, contese contro contese. La polarizzazione delle urne è così descritta dal Resto del Carlino. È Tecnè che fa questa rilevazione. Giovani e operai tornano alla sinistra. Dunque, disoccupati invece parte IVA preferiscono la destra. Il ceto medio è diviso a metà, il 35,8 segue il PD, ma la Lega è subito dietro col 31,6. È un po' dissonante questo schema, quello che invece dice il Corriere della Sera, questa volta l'SVG. Il boom della Lega tra i ceti popolari conquista il 39,2%. I ceti popolari e i ceti più piccoli scelgono la Lega. Lo rileva SVG nell'analisi del voto delle elezioni regionali dell'Emilia Romagna. Il 39,2% di chi appartiene alle fasce sociali più basse è infatti votato per il partito di Matteo Salvini, che conquista anche il 35,3% del voto dei residenti nei non capoluoghi, mentre i Dem ha votato il 36,3% dei residenti all'interno delle città. Dall'altra parte, che se guardiamo uno sguardo nazionale nelle grandi città, vediamo che Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, la Lega non governa, mentre governa nelle regioni che sono appunto tantissime regioni col centro-destra. Quindi c'è questo elemento tra centri e periferie che permane, ma parliamo di tutto Cattaneo, che parla di una regione non più rossa che rimane invece contendibile, quindi pochi trionfalismi. Ascoltiamo l'intervista al ricercatore Marco Valbruzzi e sentiamo le sue valutazioni. Ma direi la geografia dell'elettorale, la geografia del voto che è emersa da queste elezioni in Emilia-Romagna. In realtà l'Emilia-Romagna non era più una regione rossa, non lo era almeno dal 2014 e poi dal 2018 con le elezioni politiche, dove il primo partito è risultato il Movimento 5 Stelle e poi come schieramento il centrodestra è risultato primo schieramento in Emilia-Romagna. Alle europee del 2019 nuovamente il centrodestra primo schieramento e la Lega primo partito. In Emilia-Romagna, in una situazione di questo tipo, è chiaro che l'Emilia-Romagna Germania tradizionalmente rossa non lo è più da un punto di vista elettorale, quindi diventa contendibile. Se noi guardiamo i dati di queste elezioni regionali, di nuovo emerge che nel numero dei 328 comuni che sono andati al voto in queste elezioni regionali, nella maggior parte dei comuni, cioè nella maggioranza dei comuni, la Lega continua ad essere il primo partito. La forza però di Bonaccini e del centro-sinistra è che i partiti che hanno sostenuto Bonaccini sono i primi partiti nelle aree più popolate, cioè nelle aree urbane, nelle aree delle medie e grandi città, e questo ha favorito la vittoria del centro-sinistra. Quindi non è più una regione tradizionalmente rossa, è contendibile, in questo caso la contesa è andata a vantaggio di Bonaccini. Se si guarda la mappa che è all'interno del vostro studio, quello che ci ha appena detto insomma viene confermato. In realtà era un trend già iniziato, come già ricordava prima, cioè questa questione del centro, dei centri abitati e opposti tra virgolette alle periferie. Però appunto questo dato, lei lo sottolineava prima, si aggiunge al fatto che non tutti, tra l'altro, i grandi centri, ma quelli più popolosi rimangono schierati per il centro-sinistra, perché in questa mappa è molto blu anche in città come appunto non le principali della regione. Esatto, appunto Ferrara, Piacenza sono nella mappa ovviamente colorate di blu, perché sono contesti in cui la lista di Borgonzoni, la candidatura di Borgonzoni è risultata prevalente. Il centrosinistra riesce ad essere il principale partito, il principale schieramento in tutta quella striscia urbana di città che da Reggio Emilia arriva fino a Ravenna, cioè nella parte davvero più, non solo più popolosa, ma anche nella parte più dinamica economicamente, più aperta intellettualmente, culturalmente, e che quindi vive in questa fase di situazione economica, ha sentito molto più direttamente i frutti e i benefici della ripresa economica. Però c'è tutta un'area che è attorno a questa striscia centrale di città che ha deciso invece di sostenere già nel 2019, ancora probabilmente più, in modo ancora più importante e più rilevante anche nelle regionali del 2020, il centrodestra. Quindi è un'Emilia Romagna spaccata in due. Nelle europee del 2019 la contesa era andata a favore del centrodestra, in queste elezioni regionali per una varietà di fattori ha vinto invece l'Emilia Romagna urbana, economicamente più vivace. Tra questi fattori possiamo includere il fatto che la regione viene percepita più vicina rispetto all'Europa? Ma probabilmente c'è anche questo elemento, fa parte di quello che abbiamo appena detto, cioè questa Emilia Romagna che effettivamente ha ripreso a correre da un punto di vista economico, che ha agganciato la ripresa economica molto più di altre regioni, nonostante le differenze che esistono territorialmente dentro. L'Emilia Romagna ci porta più vicino al contesto europeo che non, diciamo, al contesto delle regioni che in Europa procedono a più con un ritardo, con più lentezza. Quindi ci avvicinano in quel contesto, e probabilmente il messaggio, diciamo, protezionista, sia in termini culturali che in termini identitari, propagandato da Salvini, ha spaventato questa parte dell'Emilia Romagna dinamica e pronta a stare sul terreno europeo della competizione internazionale, della concorrenza anche internazionale. Quindi in conclusione possiamo dire che il Partito Democratico e la coalizione di Stefano Bonaccini non possono dormire sonni tranquilli. Ma chiaramente no, non potevano dormirli prima del voto, perché sappiamo che la competitività era già molto alta. Ricordo ovviamente che tra Bonaccini e Borgonzoni ci sono 8 punti percentuali di scarto, e questo vuol dire un contributo rilevante portato da Bonaccini. Ma se ci concentriamo sulla parte proporzionale, cioè sui voti ottenuti dai partiti, dalle liste di partiti, il distacco tra centrodestra e centrosinistra si riduce a 3 punti percentuali. Quindi è chiaro che in questa situazione nessuno può dormire sogni tranquilli. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. E allora questo ci porta al governo, perché tutti dire prima no, se comunque il governo sarà intonso da questa operazione, almeno del centro-sinistra, e adesso invece le cose sono ovviamente cambiate. La stampa, fronte contro Salvini, l'idea di Conte che fa infuriare i 5 Stelle, questa è l'apertura della stampa, l'apertura del premier ad una formazione unica progressista spacca i 5 Stelle. E come li spacca? Li spacca in 3 parti, dice il Fatto Quotidiano. Parte la corsa tra i contiani, i Dibba e i dimaniani, sembra di leggere quando si parla della balena bianca dei congressi della Democrazia Cristiana. A un mese dagli stati generali, 5 Stelle, Di Battista prepara una mozione antiliberista, la Castelli frontwoman, per Di Maio, e Patuanelli, Taverna e Grillo pro governo. Questo sarebbe dunque destra, sinistra e centro, con una parte che da destra minaccia la scissione in versione Lega. Quindi poi c'è la rabbia dei vertici 5 Stelle contro Conte. Non ci puoi appiattire così sul Partito Democratico, sempre dalla stampa. Gruppi contro Spadaforo per nomina di Cozzoli, Bonafede di capodelegazione, domani vertice di maggioranza. E i riverberi si fanno sentire anche sulle cose concrete. Autostrade, il governo verso lo stop alla revoca, la nuova idea, multa, sconti sui pedaggi e fine delle concessioni solo nelle tratte liguri. Questo è il 88%, la quota attuale di Aspi di tutta l'Atlantia, potrebbe scendere al 50%. E subito i titoli di Atlantia in borsa volano in alto, quindi questa è l'anima del PD che in qualche modo sembra essere più forte dell'anima 5 Stelle sull'argomento. Poi andiamo al Corriere della Sera che su questo versante parla del prescrizione, quindi un altro tema doloroso tra Spadafra, questa volta il ministro Orlando. Salta il blitz di Forza Italia, ma Renzi lancia un nuovo ultimatum, quindi nella proposta contro Forza Italia, di cui doveva aggiungersi Italia Viva di Renzi, non ci sarà. Però Renzi lancia un altro ultimatum, un ultimatino, visto il peso della sua formazione politica, rinviata la discussione sul disegno di legge Costa che la cancellerebbe, la protesta degli avvocati si registra davanti a Palazzo Chigi, al Parlamento, scusate. L'intervista invece va a Franceschini che dice e parla del tema della legge elettorale. Sappiamo che si voterà per il taglio dei parlamentari a fine marzo e allora è chiaro che ci vuole parallelamente una nuova legge elettorale con anche un nuovo ridisegnamento dei collegi elettorali. Avanti col proporzionale, dice Franceschini, ci sarà un nuovo bipolarismo Lega Partito Democratico. 5 Stelle avrà bisogno di tempo, intanto inizia la verifica. Il premier non cambia, dice ancora Franceschini, fino al 2023 non vedo spazi né per un altro premier né per un altro esecutivo, anche perché secondo il Fatto Quotidiano che guarda Conte c'è questo elemento che riguarda la Chiesa Cattolica, che in qualche modo la Chiesa vuole, leggo qua da Carlo Tecce, la Chiesa rivuole i cattolici in politica, Conte si prepara, sarebbe l'uomo del destino per il Vaticano, per la CEI per essere più esatti, rapporti sempre più fitti, dice la tela raccontata dal Fatto Quotidiano. Il sabato il premier dei gesuiti, Assisi e umanesimo, il presidente sempre più vicino ai temi cari al Papa, si candida a occupare uno spazio. Beh, anche il giornale conferma, Zingaretti punta su Conte, può essere il premier del nuovo centrosinistra. Devo dire che poi non c'è solo Conte a proposito di mondo cattolico, perché il giornale denuncia anche l'iperattivismo di nonno Prodi, onnipresente tra TV, radio e giornali, anche se lui nega, felice con mia nipote, ma in realtà punta al Quirinale, non ancora digerito il siluramento del 2013. Dice i 101, quelli che lo avevano cecchinato, sono ancora lì. Fra l'altro i giornali a livello di politica oggi si muovono appunto tra il governo che c'è e il governo che potrebbe venire, guardando anche in prospettiva. Ad esempio segnalo il Manifesto con un'intervista a Nicola Fratoianni, ora che segretario uscente di Sinistra Italiana, che chiede una coraggiosa nazionale, ma invece restando sull'azione del governo, corsa a ostacoli per la verifica. Conte in cabina di comando per la fase 2. Naturalmente nella fase 1 c'è la prescrizione, c'è la giustizia, nuovo rinvio che paralizza i giallorossi, stoppa la proposta che avrebbe cancellato la riforma Bonafede, il quale, nel frattempo è diventato capo delegazione dei 5 Stelle nel governo, evita l'argomento. Quindi la politica del rinvio sembra evidentemente quella, forse la tattica preferibile, anche dalle pagine della Repubblica. L'azione di governo appunto si muove tra Bonafede capo delegazione, ma le alleanze spaccano i 5 Stelle e poi altre vicende come quella ad esempio delle autostrade. Riparte la trattativa, si allontana la revoca della concessione. Queste sono le ultime notizie, tanto che Atlantia ha ripreso a volare in borsa proprio perché ci sarebbero riprese le trattative nelle segrete stanze con il governo, a fronte di un corposo pacchetto di misure da parte del gruppo che fa capo ai Benetton. Il retroscena raccontato da Tommaso Ciria, con multe e sconti sui pedaggi. Questo sarebbe un vecchio piano appunto che Conte avrebbe intenzione di rispolverare, e vedremo appunto se effettivamente si sta verranno resi pubblici appunto questi contatti che naturalmente ci sono appunto nell'ombra. Anche dal Carlino leggiamo da un lato lo stallo giustizia con la maggioranza che rinvia tutto, il governo spaccato in tre con i grillini super favorevoli, il PD incerto e Renziani furibondi. Questo appunto è il riassunto, la sintesi che ne dà il Carlino, che a proposito di giustizia e politica poi aggiunge anche un altro riverbero. Stefania Craxi accusa D'Alema, poteva salvare mio padre, ovviamente anche dopo il film di Gianni Amelio Amamet c'è stato un rilancio appunto del dibattito sull'ultima fase, sull'ultima stagione di Craxi, e risponde D'Alema: non ho mai partecipato al linciaggio politico e giudiziario di Bettino, io volevo i funerali di Stato. Nazisti nella giornata della memoria a Vicenza, la scritta è stata firmata con una svastica sigla SS Vicenza. 27 gennaio, giornata della memoria, ricordiamoci di aprire i forni, ebrei, rom, sinti, froci, negri, comunisti, ingresso libero. Questo è simpatico cartello, simpatico ovviamente tra virgolette, con di tanti virgolette, questo orribile cartello messo davanti alla sede del PD. A Torino c'è appunto questa marca Maria Bignani, che compierà 65 anni domani, nata in pensione lo scorso ottobre e vive in una storica casa di ringhiera sulla precollina di Torino. Sul muro accanto alla sua porta qualcuno ha vergato con il pennarello una terribile minaccia: crepa sporca ebrea. La scritta antisemita, leggo sempre da Corriere con Massimo Massenti, la scritta antisemita resterà lì, testimoni i nostri tempi. Ancora una volta c'è un livello di coraggio da una parte della signora, di vigliaccheria di questi barbari, che credo che spicchi da sola. La reazione, spero che questo gesto orribile fatto da codardi non venga scordato in fretta. Questo è il quadro che arriva dalla pagina del nazisti. Sempre nella cronaca, anzi ricollegandoci forse al governo che piange sempre piatto piange, non ci sono i soldi, leggo da Contropiano, giornale comunista online: l'esercito acquista 800 missili da Israele per armare blindati e carri armati. Quindi quelli tra F-35 e missili da Israele non ci facciamo mancare nulla. L'esercito italiano ha in fancetta di missili in Israele. Nell'ambito del programma di ammodernamento ed approvvigionamento di nuovi sistemi d'arma tecnologicamente avanzati, questa dicitura esatta, lo Stato Maggiore dell'Esercito ha comunicato che acquisterà 126 lanciatori controcarri e 800 missili spy condotti da Rafael Advanced Defense System LDT, società leader del complesso militare industriale israeliano. Questo è quanto. Pagina ambientale, Milano, domenica Pidi, 8 ore di stop, sondaggio sull'ambiente, area B promossa, più centro che in periferia, ma inefficace. Nel frattempo, anche oggi giornate di sole, poi se non c'è la nebbia appunto c'è giornate, si colorano le città, ma questa è l'altra faccia della medaglia, perché in realtà Paolo Virtuani ci racconta il calendario dal Corriere: i giorni della merla fa caldo, la merla sappiamo che era talmente fredda che il merlo che era bianco si infila nel camino per stare caldo e diventa nero per il carbone. Ecco, questa è la leggenda che ricorda appunto i giorni freddi, più freddi dell'anno. Secondo la tradizione sarebbero i più freddi dell'anno per l'appunto, ma non è più così. Anche quest'anno fioriture in anticipo, si vedono dei peschi in fiore che arrivano dalle foto del Corriere. Passo alla Stampa, una notizia triste, perché muore la foca spiaggiata in Puglia, era un cucciolo forse nato qui. Inutili tentativi degli esperti di rianimare gli animali, i biologi sono ottimisti, la specie sta espandendo all'interno del Mediterraneo. Sì, a proposito di giustizia, aggiungo come post-scriptum un'intervista oggi del Manifesto al regista israeliano Amos Gitai, che è a Torino per una masterclass alla Mole Antonelliana e che parla proprio di memoria. Pensare il cinema tra memoria e utopia, dice fra l'altro Gitai, che aveva girato anche qualche anno fa il film In the Name of the Jews in Italia durante la campagna elettorale per il sindaco di Napoli. Se fossi italiano farei un film sul luogo in cui ci troviamo, Torino, in cui ha vissuto Gramsci, ad esempio inserirei Gramsci nei programmi scolastici, però anche in Germania, dove i conti con il passato sono stati fatti, la violenza razzista esiste ancora, perché la memoria è un processo, non si può mai smettere di ricostruirla e di riattivarla, dice Gitai. E dalla memoria invece diciamo al presente, perché oggi vari quotidiani segnalano questa notte bianca per salvare le edicole. Oggi in 40 città una rivendita rimarrà aperta fino alle 23 su iniziativa del sindacato dei giornalai. Senza i giornali non c'è democrazia, detto da noi ovviamente che li usiamo per la rassegna stampa. Ça va sans dire. Appello a Mattarella per destinare parte del finanziamento pubblico. Naturalmente i numeri sono tremendi, nelle metropoli, soprattutto la moria di edicole costante, negozi dimezzati negli ultimi 15 anni, di 42.000 esercizi ha chiuso quasi la metà. Dopo lo sciopero, la petizione per chiedere un finanziamento pubblico, le edicole fanno la notte bianca o quantomeno una serata bianca, appunto con questa iniziativa proprio per portare avanti una più possibile, insomma, una campagna di sensibilizzazione e tenendo conto, appunto, chiedendo anche la raccolta di firme, la continuazione della raccolta di firme per l'appello per destinare alle edicole una parte del finanziamento pubblico per l'editoria. A proposito di giornali, non possiamo non sottolineare il titolo di libro questa mattina, che si conquista il premio Viene Avanti Cretino, che risponde a distanza all'intervista che abbiamo presentato all'inizio di Dario Zanardi a Paola Rudan di Non Una di Meno di Bologna, che annuncia questo sciopero femminista in prigione dell'8 marzo contro i femminicidi. Lui replica: sorprendente verità nelle statistiche, titolo di libro, più maschicidi che femminicidi. Ultimi dati disponibili, 133 uomini uccisi all'anno, mentre donne sono 128, eppure non si assiste a mobilitazioni in favore del sesso forte, che in realtà è debole. E questo vittimismo piagnisteo, altrimenti fa finta di non sapere che gli uomini muoiono per scontri, bande armate, criminalità organizzata e quant'altro, questa statistica. Ma questo ci riporta a volte a Franz Zappa, perché Franz Zappa, grande musicista del Novecento, Carlo Massarini ha ritrovato una vecchia intervista del 79, La Repubblica. Franz Zappa dice, tra l'altro, a proposito di tanti giornalisti, chi sono i giornalisti? Lui parla di giornalisti musicali, ma si può estendere il concetto. Sono i giornalisti gente che non sa intervistare persone che non sanno parlare, per gente che non sa leggere. Cade la mela dal I try to find how my heart could be so blinded. How could I be fooled just like the rest? You came on strong with your fast car and your class ring, soft voice and your sad eyes. I fell for the whole thing. I don't regret having met a girl who breaks hearts like they were nothing at all. I've done it too. Now I know just what it feels like. Just like I said, there's no regrets. Well, it's about time to close. I hope you've had as much fun as we have. Don't forget the jam session Sunday. Mandy Tension will be by. Play the xylophone tree. It's been a lot of fun. Monday night's dance contest night. Swiss contest. Gonna give away peanut butter jelly bologna sandwiches for all of you. It really has been fun. I hope we played your requests, the songs you like to hear. Last call for alcohol. Drink it up, folks. Wonderful. Nice to see you, Bob. How's it going? How's the kids? Wonderful. Nice to see you. Yes. Oh, Bill Bailey? Oh, we'll get to that tomorrow night. Yeah. Caravan with a drum solo? Right. Yeah, we'll do that. Wonderful. Nice to see you again. Yeah. La la la, don't act so pompadour, go go. Well, got it up with me, a stupid little la la la, la la la, la la. The Mother of Invention, Franz Zappa, American Greens and Gold, cioè l'America beveva, un po' come i giornali che si leggono, poi si buttano nel cestino e il giorno dopo si ricomincia da capo. Ma siamo dunque all'ultimo dato di cronaca, che arriva questa mattina da un flash di agenzia, dall'ANSA, e caccia gli autori dell'attentata rapina da un furgone portavalori con auto e camion incendiati, il traffico bloccato sulla 1 vicino a Lodi Vecchio, quindi tra Bologna e Milano. Mentre il traffico è tornato normale, c'è un alvaglio, telecamere e autovelox lungo la strada che possono aver ripreso le fasi preparatorie dell'assalto, che chiaramente a un furgone filiblindato può essere un assalto di carattere militare. L'ipotesi che gli autori dell'assalto appartengono ad una banda di professionisti, oltre 10 malviventi entrati in azione, quindi un vero esercitino, 6 le auto incendiate su una strada di campagna a ridosso dell'abitazione di Salerano dell'Ambro, sempre nell'Odigiano. Questa è notizia che domani sarà regina della cronaca nera anche sulla carta stampata. Nel frattempo quest'oggi veniamo da Lodi a Bologna, risalendo la A1, andiamo al Carlino, gli sberleffi del killer Igor, il mitico assassino Igor, quello, la prima rossa in Italia, subito beccata in Spagna. Igor a processo in Spagna, occhiolini, sorrisi e gesti dalla gabbia, infatti fa vittoria con le dita, non so cosa abbia vinto, con 5 vittime, Norbert Fehr in aula per 2 tentati omicidi. Lui si chiama così, Igor, Norbert Fehr. Misure di sicurezza mai viste per 3 delitti, sarà giudicato più avanti, mentre in Italia è già stato condannato all'ergastolo. Ancora il carnevale in tono minore, ci saranno solo 3 carri, e non per il virus cinese, ma perché l'anno scorso, ricordate la tragedia del bimbo morto schiacciato da un carro, dopo la tragedia l'anno scorso, racconta il Carlino. La pagina invece del Carlino di Bologna, c'è una notizia che se fosse andata venerdì sarebbe in prima pagina nella Lega, oggi invece è un passano, via Begatto pagheremo i vigilantes, rivolte ai cittadini per la violenta rapina della 22enne, dimessa la ragazza dall'ospedale. In ultimo, provocazione assistita all'estero, poi il dramma e la scelta coraggiosa di un'altra famiglia, prematura grave, i genitori non lo riconoscono, viene adottato. Sì, anche su Repubblica Bologna, naturalmente gli strascichi del dopo elezioni, con 2 annotazioni. Uno, Bonaccini sceglie Felicori alla cultura, e anche un posto di rilievo anche per Elly Schlein, possibile per lei la poltrona da vice o un assessorato tra ambiente e Unione Europea. E poi Alfredo citava prima l'inchiesta sul carabiniere dopo Salvini al Pilastro. Repubblica Bologna ci ricorda che lo stesso militare era già indagato, risultava già indagato per stalking e depistaggio, quindi è uno che aveva un certo pedigree di tutto riguardo, e direi che con questo è tutto anche per oggi. Thank you.